24 Mattino. Ancora buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla seconda parte di 24 Mattino dedicata alla lettura dei quotidiani in edicola oggi, che come potete immaginare aprono tutti sul nuovo governo, quello di Gentiloni. Il Sole 24 Ore, via al governo Gentiloni, 5 nuovi ministri, molti commenti che come è naturale che sia sul Sole 24 Ore sono soprattutto economici, e quindi Carmine Fotina ci racconta poi a pagina 4, l'articolo inizia in prima pagina, confermate squadre e priorità per l'economia. Infatti una delle caselle chiave, che erano le due caselle chiave, quella del ministro dell'economia che resta Padoan e quella del ministro per lo sviluppo economico che resta Carlo Calenda, garantiscono appunto una continuità. Gerardo Pelosi ci ricorda che una delle scadenze imminenti per il governo è quella della presidenza del G7 nel 2017, anche se, come sappiamo, il primo dossier è quello di MPS. Infatti in prima pagina anche gli aggiornamenti sulla vicenda MPS è la prova della conversione, la famosa conversione da bond a azioni. Il Ministero dell'Economia dice pronti a interventi se necessario, e vedremo, perché anche qui è tutto un in divenire. Vedremo oggi che cosa, quali saranno le novità sulla vicenda MPS. Dalle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore vi segnalo anche, l'ho trovato forse perché sono un po' di parte in questo, ma mi sembra l'identikit, le schede più efficaci. Ci sono appunto le schede di tutti i ministri e per ciascuno si spiega se è un nuovo ministro, un ministro trasferito o un ministro confermato. La prima pagina del Corriere della Sera: c'è il governo, pochi nomi nuovi, e nel sommario il Corriere della Sera ricorda quello di cui parlavamo anche prima con Silvia Brasca e Carlo Rienzi nella prima parte di 24 Mattino, che Verdini, tanto contestato per l'alleanza con Renzi, o meglio Renzi tanto contestato per l'alleanza con Verdini, Verdini fuori, e Verdini ha subito detto va bene, allora noi non daremo la fiducia a questo governo, che ricordiamo appunto oggi si presenterà in Parlamento per avere la fiducia come da prassi costituzionale. La Repubblica, Gentiloni, governo fotocopia. L'editoriale è del direttore della Repubblica Mario Calabresi, direi un editoriale abbastanza critico, duro quasi, fin dal titolo, troppo poco. Vi leggo l'ultima parte: Angelino Alfano si è spostato alla Farnesina, un passaggio incomprensibile in una fase così delicata, dato che non si conoscono sue competenze in politica estera. Come non pensare a una mossa dettata dalla voglia di allargare il curriculum o dalla necessità di allontanarsi dalla patata bollente dell'immigrazione? Ma non era meglio restare e rivendicare il lavoro fatto? Scelte evitabili che rafforzano diffidenze, gonfiano il qualunquismo e lasciano un retrogusto di furbizia e immaturità. A pagare gli errori del passato la sola ministra Giannini, senza che il governo abbia mai fatto un minimo di autocritica sulla riforma della scuola. Troppo facile e troppo poco. Il Messaggero, parte Gentiloni, prime spine. Il riferimento è innanzitutto alle critiche che sono arrivate immediate al spostamento appunto di Angelino Alfano dal Ministero degli Interni a quello degli Esteri, e poi al fatto che appunto il partito di Verdini resta fuori, e la reazione immediata di Verdini: ah sì, allora noi voteremo no alla fiducia. Vi segnalo anche una notizia che poi è stata confermata perché un'ora fa, o meglio ha avuto un seguito un'ora fa, la notizia è questa: la Procura di Roma, in prima pagina sul Messaggero, spiega Valentina Errante, dice l'assessore Muraro all'ambiente agiva da capo, è stata convocata dai PM, e siccome in realtà è proprio indagata Paola Muraro più o meno un'ora fa si è poi dimessa. È una notizia naturalmente che i giornali non sono riusciti a dare. La Stampa, governo Gentiloni, ministri di Renzi, quindi molto critico fin dal titolo anche il giornale, e un bel racconto, una fotografia di Mattia Feltri alle pagine 4 e 5, che si intitola Giuramento tra precarietà e malinconia. Sappiamo precarietà perché questo dovrebbe essere un governo con una vita breve, e poi melanconia perché forse appunto c'è questo, ci sono alcuni i ministri che non ci sono più, e comunque l'idea che sia forse, come dicono molti, un governo fotocopia, ma forse una fotocopia un po' comunque sbiadita. Vi segnalo il Buongiorno di Massimo Gramellini, molto critico con Luca Lotti, ma mi ha colpito in particolare è molto critico in generale su questo mini rimpasto, questo passaggio. Poletti non molla l'osso del lavoro, malgrado una sua legge dal nome inglese, che gli inglesi hanno dovuto tradurre, in inglese Jobs Act non significa nulla, si è accostato al governo RCR, Renzi con Renzi, l'ammutinamento elettorale dei giovani. Io non so chi abbia detto a Gramellini che Jobs Act in inglese non significa niente. In realtà Act è una parola che soprattutto gli americani usano per indicare le leggi, c'è il Patriot Act, c'è il Freedom Act, c'è il Violence Against Women Act, c'è il Bribery Act, quindi non, veramente ci si può esercitare in mille critiche perché i pretesti sono tantissimi, e mille critiche a questo nuovo governo, ma quella di dire che Jobs Act è intraducibile proprio è un po' troppo. L'unità, Gentiloni al via, Verdini fuori, quindi l'unità dà molta enfasi a questa mossa di Gentiloni che appunto ricorda le critiche che furono mosse a Renzi quando ci fu questa alleanza con Verdini, che era un fuoriuscito da Forza Italia e fuoriuscendo da Forza Italia ha poi fondato il suo mini partito, il suo mini gruppo parlamentare. Il giorno, Gentiloni quasi un Renzi bis, e qui il riferimento a Verdini è secondo me inquietante perché secondo il retroscena del giorno, Denis, il nome di battesimo di Verdini, tuonò la sanità o nulla, cioè voleva proprio appunto il Ministero della Sanità, sapete che la sanità è la prima voce di spesa a livello nazionale e poi di tutte le regioni, dove ci sono molti soldi naturalmente c'è anche molto potere, una delle critiche alla gestione della sanità degli ultimi decenni potremmo dire è che sia stata in parte gestita dalla politica quando è un ministero, una materia che dovrebbe essere sicuramente affidata anche per le decisioni più prettamente sanitarie a medici o tecnici e purtroppo la politica invece ha avuto un ruolo sicuramente esagerato con tutte le conseguenze che sappiamo, gli episodi di corruzione tra l'altro di proporzioni enormi perché appunto gira ci sono fondi giganteschi per la sanità, è un settore il più dispendioso in assoluto. Il Fatto Quotidiano, 19.419.507 italiani presi a schiaffi dalla Cozzaglia. Questo per dire come il Fatto Quotidiano persista con coerenza nella linea che il no è stato un no al governo Renzi e quindi il fatto che questo esecutivo con Boschi e Finocchiaro, autrici della riforma bocciata dai no, sia appunto stato varato ieri e che oggi cercherà la fiducia in Parlamento per il Fatto Quotidiano è uno schiaffo a questi italiani, ai 19 e quasi 19,5 milioni che hanno votato no. Il giornale, il governo nasce morto, anche qui insomma un titolo che non lascia molto spazio a interpretazioni, è chiarissimo. Il sommario, mentre Gentiloni e i ministri giurano al colle, Renzi minaccia di spegnere l'esecutivo e Verdini gli toglie la fiducia. Il commento di Forza Italia, una vergogna senza fine. Libero, ministrini riscaldati, quindi un gioco di parole anche abbastanza divertente. Neppure il governo si riforma. L'esecutivo Gentiloni è una fotocopia del precedente con due fedelissimi di Matteo alle caviglie del Premier. E il riferimento è a Maria Elena Boschi, che diventa sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e Luca Lotti, che invece diventa ministro dello sport con una specie di poltrona creata ad hoc, anche se sappiamo che fino adesso l'ultima cosa di cui si è occupato Lotti è stato lo sport, si è occupato di altri dossier importanti. La verità, ne abbiamo i gentiloni pieni. Anche qui, quindi, chiarissima la posizione del quotidiano fondato da Maurizio Belpietro. La fotonotizia è di Angelino Alfano in una espressione abbastanza divertente, con gli occhi spalancati e un sorriso un po' forzato. È ministro da 2498 giorni, peggio fa più lo premiano. E vi segnalo dalla prima pagina della Verità, e approfitto anche per ringraziare Poi naturalmente lo ha già fatto Alessandro, quindi ringraziare tutti gli ascoltatori che hanno mandato messaggi al 349-238-6666, messaggi di condoglianze per Alessandro. Il post che lui ha messo ieri mattina molto presto sulla sua pagina Facebook, la lettera a Francesca Del Rosso, la sua moglie che è morta nella notte, è pubblicata integralmente dalla Verità, con un giornale con il quale Alessandro collabora, e inizia in prima pagina e poi continua a pagina 17 proprio integralmente. Grazie di tutto, Wondi, che era il soprannome di Francesca, da Wonder Woman, nella tua malattia ci ha insegnato la vita. Ci fermiamo un attimo per una pausa e ci ritroviamo tra qualche minuto. Mattino. Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, titoli quasi per tutti, proprio a tutta pagina, sono dedicati alla nascita del governo Gentiloni. Ci mancavano il manifesto, che titola Non è successo niente, la foto è la foto di gruppo del nuovo governo, il terremoto del referendum partorisce il topolino del governo, fotocopia di Gentiloni. Il Foglio ha due articoli, uno del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, lo si riconosce perché alla fine al posto della firma c'è la ciliegia, niente brindisi per i nazareni, il filo conduttore del nuovo governo è di nuovo il patto tra Renzi e il Cavaliere, ma non c'è da essere allegri se rifletterà la nuova epoca del minimalismo politico, la partita del voto e le risate sui nemici del governo non eletto. E poi un pezzo di Maurizio Crippa, che poi è la sua rubrica, che si chiama Contromastro Ciliegia, con un ritratto non proprio lusinghiero del nuovo ministro dell'istruzione, Valeria Fedeli, che è stata fino a ieri la vicepresidente della Camera, è stata in passato dal 2001 al 2012 segretaria generale di Filtea, che è il sindacato la parte della CGIL dei tessili, dei lavoratori del settore tessile, e poi è stata presidente del sindacato tessile europeo. Quindi competenze proprio specifiche sulla scuola e l'istruzione non ne ha. L'Avvenire, Gentiloni, gemello diverso, giura il nuovo governo, Alfano agli esteri, Minniti all'interno, il Premier, lavoro e sud, le nostre priorità e il no delle opposizioni. Ma passiamo alle pagine interne. Oggi Mauro è fuori Milano per lavoro, quindi Mauro Meazza, quindi non ci potrà, come sempre fa, raccontare quello che secondo lui sono gli articoli più importanti del Sole 24 Ore di oggi. Cerco di farlo io. Vi segnalo sulla questione Monte dei Paschi la pagina 8, perché c'è da una parte un po' la cronaca di quello che è successo ieri, abbiamo visto le dichiarazioni del Ministero dell'Economia, pronti a intervenire se serve, un approfondimento di Isabella Bufacchi su quello che potrebbe essere il nuovo MPS, quindi la nuova banca, due percorsi che portano alla cessione delle sofferenze, cioè i crediti inesigibili, e poi la parte inferiore della pagina è dedicata proprio a una sorta di esperto risponde sulla questione Monte dei Paschi. Le vostre domande e le risposte degli esperti del Sole, questa prima tornata appunto di domande e risposte, conti correnti, azioni, bond e polizze, le risposte ai lettori sul caso MPS. Poi un approfondimento su quello che sta succedendo a Bruxelles, la mossa della Cina. Sapete che da una parte c'è Trump che sta dando l'impressione di volersi avvicinare alla Russia e allontanare dalla Cina. Quella che non si capisce se è stata una gaffe o invece una mossa studiata, cioè di chiamare la presidente di Taiwan, che in realtà tecnicamente è parte della Cina, e quindi prima di chiamare il presidente cinese è stato considerato uno sgarbo istituzionale. Ora la Cina si appella alla WTO, l'Organizzazione per il Commercio Internazionale, contro l'Unione Europea. Perché? Perché la Cina non ha avuto il riconoscimento dello status di economia di mercato e considera questo mancato riconoscimento un'ingiustizia. L'analisi di Paolo Bricco: perché la Cina non è ancora un'economia di mercato e quindi è corretto che l'Unione l'Unione Europea non le abbia garantito questo status. Un bel approfondimento invece sull'industria italiana, l'ho trovata a pagina 14 di Filomena Greco, sul distretto dell'oreficeria di Valenza, che ha sofferto molto quando è arrivata l'ondata della globalizzazione e molta, molta parte dell'industria orafa è stata delocalizzata all'estero, si è poi specializzata in produzioni di alta gamma e ora l'export rallenta perché nel 2016 ha rallentato un po' in tutti i settori, ma resta il driver principale del territorio. E poi un approfondimento su quello che è stato presentato ieri, un nuovo progetto della piattaforma Elite, che è un progetto di borsa italiana per accompagnare le aziende verso la borsa. Sapete che in Italia sono molto poche rispetto ad altri paesi, soprattutto visto che siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa, sono poche le aziende quotate che scelgono quindi la strada della finanza come strumento per crescere. E il titolo del reportage di Francesco Antonioli, un patto tra economia reale e finanza. Confindustria e Borsa Italiana firmano a Torino un protocollo per sostenere le eccellenze. L'analisi, una nuova cultura per spingere gli investimenti. Invece, nelle pagine di commenti inchieste, il ricordo di un grande italiano che è Gabriele Pescatore, l'uomo, il giurista, il meridionalista. Lo spunto è che ieri è stata intitolata allo storico presidente della Cassa per il Mezzogiorno la biblioteca di Palazzo Spada a Roma e viene definito, nel commento di Paolo Baratta, un meridionalista attento alla cosa pubblica. L'ultima segnalazione dal Sole 24 Ore stupirà perché siamo abituati a sentire degli scioperi nei trasporti, ce ne sarà uno tra l'altro venerdì del trasporto locale in molte città italiane, ma anche per i commercialisti è arrivata l'ora della protesta. Ce lo spiega Bianca Lucia Mazzei sulla copertina di Norme e Tributi, manifestazioni domani a Roma contro l'eccesso di adempimenti e le nuove comunicazioni trimestrali previste dal decreto legge fiscale appena approvato. Passiamo al Corriere della Sera e vi segnalo, l'ho trovato un po' su tutti i giornali, però lo prendo dal Corriere della Sera, quella dichiarazione di D'Alema a cui abbiamo accennato anche nella prima parte di 24 Mattino. D'Alema che ha subito detto che con questo governo, con queste mosse, dice abbiamo già perso 5 punti. 5 punti, se si votasse oggi, secondo D'Alema, il PD avrebbe perso 5 punti. E poi vi segnalo, questo non l'ho trovato su molti altri giornali, un breve ritratto per capire chi è la nuova First Lady, cioè la moglie di Paolo Gentiloni, si chiama Emanuela Mauro, è una designer di interni, c'è una sua foto e vedremo appunto se avrà un profilo come sostanzialmente ha avuto Agnese Renzi, presente ma anche non presenzialista, ecco, o come sceglierà di stare a fianco del marito la moglie di Paolo Gentiloni. Vi segnalo anche, per ricordarci sempre che giustamente noi siamo concentrati su quello che sta succedendo in Italia, però all'estero succedono tantissime cose. In Turchia, come conseguenza degli attentati, dei recentissimi attentati, vicino allo stadio di calcio, c'è un'ulteriore stretta del presidente, Erdogan su quelli che lui considera gli oppositori e in questo caso Francesco Battistini ha intervistato, uno storico leader, Ali Lazur Kosrat, che è un leader, dei curdi. Sapete, il Kurdistan viene definito, l'unico paese senza una nazione o l'unica nazione che non è un paese, è una grande zona che parte della quale in territorio turco, ma appunto il Kurdistan non è un'entità politica e combatte per l'indipendenza da moltissimi anni. Secondo alcune rivendicazioni, gli ultimi attentati sarebbero proprio firmati dalla frangia più estremista degli attivisti curdi. Il titolo però di questa intervista è la Turchia in crisi, ma Erdogan pensa solo al suo potere. Sono 40 anni, ricorda Francesco Battistini, che appunto i curdi lottano per essere riconosciuti e per avere l'indipendenza. Vi segnalo dal secolo XIX, trovate anche questo anche su altri giornali, però il secolo XIX è il giornale di Genova, la cronaca dell'intervento di Beppe Grillo ieri a Genova, non per un comizio, ma per uno spettacolo da comico. Il titolo del pezzo di Paolo Crecchi è Il potere non accetterà mai la comicità. e però ovviamente gli è stato chiesto qual è il futuro del Movimento 5 Stelle e Grillo ha risposto: come Noè costruiremo una grande arca per sopravvivere. A proposito di Unione Europea, appunto di quello che succede intorno a noi, nell'Unione Europea e fuori dall'Unione Europea, la Repubblica ha intervistato Erkki Katainen, che è il vicepresidente della Commissione Europea, cioè un po' l'equivalente del governo dell'Unione Europea. Il titolo dell'intervista di Ferdinando Giuliano è: La UE non chiede misure aggiuntive, ma il nuovo governo continui le riforme. Quindi una sorta di endorsement per il nuovo governo di continuare sulla strada delle riforme. Dalla Repubblica siamo arrivati alla seconda puntata di quell'inchiesta iniziata ieri, annunciata domenica, iniziata ieri all'interno della Front National. Sapete che la sua leader Marine Le Pen si candiderà alle presidenziali per la Francia e in questa seconda puntata, ieri la prima puntata era un reportage dal quartier generale di Marine Le Pen, oggi invece viaggio a Hénin-Beaumont, il feudo di Marine Le Pen nel nord della Francia, da cui ha lanciato la riscossa del Front National conquistando il voto degli operai, con l'ambizione di radicarsi in tutto il paese. Poi una bella storia, sempre su Repubblica, pagina 21, ce la racconta Laura Montanari, è la storia inviata a Firenze, la storia di Fu Fangui, 32 anni, che è il titolare di un'azienda di pelletteria vicino a Firenze. Sapete che abbiamo parlato del distretto orafo di Valenza, e invece intorno in Toscana ci sono tantissimi mini distretti specializzati in pelletteria, soprattutto intorno a Firenze, e sappiamo anche, ce lo hanno raccontato, le cronache dei mesi e degli anni scorsi, che invece intorno a Prato ci sono anche dei laboratori tessili dove le condizioni di lavoro sono vicine allo sfruttamento, anzi sono proprio molti lavoratori sono proprio sfruttati, come avviene fuori dall'Unione Europea. E allora il titolo di questo racconto è Il cinese che sfida il modello Chinatown. Nella mia fabbrica, diritti e sindacato. Mi piacerebbe, per esempio, dice l'imprenditore, che il comune mi aiutasse a organizzare corsi d'italiano e vorrei un asilo nido per i dipendenti. La sua storia, che è arrivato in Italia a 14 anni, ha vissuto anche periodi duri, racconta: la mattina a scuola e il pomeriggio aiutavo i miei genitori che lavoravano già appunto in un laboratorio di pelletteria. Dal Messaggero vi dicevo che dava in anteprima la notizia che l'assessore all'ambiente Paola Muraro era stata convocata dai PM, abbiamo detto poi un'ora e mezza fa si è dimessa, quindi all'ascoltatore che dice: per sapere di Roma leggi il Messaggero di Caltagirone, se tu sei una giornalista io sono un astronauta, e gli posso solo rispondere che certo non bisogna mai attingere le proprie notizie solo a una fonte, però oggi gli unici che davano spazio a questa notizia, che poi si è rivelata talmente vera che appunto ha provocato le dimissioni di Paola Muraro, l'unico giornale che dava questa notizia era il Messaggero. Ultimissima segnalazione prima della pausa sul traffico, sempre dal Messaggero, un aggiornamento sul futuro di Alitalia, che continua a essere in profonda crisi nonostante abbia adesso nella sua compagine azionaria Etihad, che è una compagnia degli Emirati molto forte. Ora però c'è un braccio di ferro proprio tra Etihad e le banche. Pressing di Intesa e Unicredit, due delle banche che più hanno finanziato all'Italia negli anni scorsi, gli arabi devono convertire immediatamente 216 milioni di bond. Slitta quindi il via libera del CDA al nuovo piano industriale, che resta aperto in vista di un chiarimento tra i soci. Quindi la vicenda all'Italia è l'odissea che abbiamo conosciuto negli anni scorsi e che continua. Ci fermiamo però un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. Mattino. Ancora buongiorno e buon martedì da Giulia Crivelli. Ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna. Eravamo nelle pagine interne dei giornali. Davvero ancora ringrazio, mi colpisce tantissimo, ma è giusto che sia così, che passi questo calore degli ascoltatori che mandano messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp per trasmettere la loro vicinanza ad Alessandro per il suo lutto. E poi naturalmente ci sono anche quelli che o mi criticano o magari non mi criticano più o meno duramente, ma è giusto e bello che sia così, che ci siano questi messaggi diretti da cui capisco, cerco di insomma capire parte degli umori di chi ci ascolta. E sicuramente gli umori di tantissimi che ci ascoltano sono appunto quelli di essere vicini ad Alessandro. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali, la stampa. Ha questo schema molto chiaro che ci spiega una notizia che è arrivata ieri, ma così chiaramente non l'ho trovata su nessun altro giornale, ed è quella sulla maxi intesa mediterranea tra Eni e Russia che diventano soci nel gas. Al gruppo, infatti al gruppo russo, 1,6 miliardi per il 30% del giacimento egiziano Zohr. L'acquirente al gruppo, scusate, a Eni, quindi vanno 1,6 miliardi perché ha venduto a Rosneft il 30% del giacimento egiziano Zohr. Questo fa parte, solo un piccolo tassello del grande risico del gas nel Mediterraneo orientale, che è appunto ben illustrato da questa mappa che c'è alle pagine 16 e 17 della stampa. Vi segnalo un articolo sull'Unità di Dorella Cianci, forse chi ci ha seguiti fin dalla prima parte con Silvia Braschi e Carlo Rienzi del Codacons, ha sentito anche Silvia Braschi dire che lei difende comunque Mariella Boschi, soprattutto perché questa ministra, ex ministro delle riforme e ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è stata attaccata anche solo per essere donna, giovane, bella sicuramente, e questo indica ancora forse una forma di sottile maschilismo, secondo l'analisi, devo dire, che credo possa essere apprezzata da tutti, di Dorella Cianci, intitolata La maieutica di Renzi secondo Eco. Vi leggo solo la prima parte. Sei donna, sei bella, hai 30 anni, ti hanno nominata ministro delle riforme, qualcosa non va. La macchina Italia mette in moto il meccanismo del dubbio a prescindere. A nulla è valso il monito di Umberto Eco che, uscendo di scena, invitava l'Italia a prendere sul serio i trentenni senza considerarli sempre giovani, donne e uomini. Per le donne però la situazione è davvero grave. E poi vi leggo l'ultima parte. Se proprio questo paese non ha più nulla da dire, come è accaduto a una persona per bene come Agnese Renzi, che invece è stata accusata per il golfino che indossava, che era un golfino troppo prezioso secondo alcuni. Le donne di questo paese sono chiamate a fare una seria riflessione su come spesso sviliscono loro stesse le altre donne. E poi vi segnalo dal manifesto una notizia secondo me importante che solo il manifesto dà con questo spazio, è che c'è un nuovo accordo tra l'Unione Europea e il Mali, che è un paese con fortissime disuguaglianze, ma con un reddito medio tra i più bassi dell'Africa. È stato firmato un accordo per fermare e rimpatriare gli irregolari. Quindi, essendo un paese molto povero, è anche uno dei paesi dai quali viene molta immigrazione clandestina. Siccome si dice sempre che la soluzione vera di medio-lungo periodo è agire appunto nei paesi da cui gli immigrati scappano, questa mi sembra appunto una buona notizia. Ancora una segnalazione. Altra buona notizia di tutt'altro genere dal giornale, che racconta come questo astrofisico Luca Perri, tra l'altro anche lui giovane, ha 30 anni, ha un dottorato in fisica e quando fa delle conferenze come al Planetario di Milano c'è la fila fuori. Astrofisico rockstar, il Planetario sembra lo stadio. Il suo post sulle onde gravitazionali, perché naturalmente è anche molto attivo sui social, ha raccolto 35.000 like. A Milano c'è la fila per le sue lezioni sui buchi neri. Sapete che io sono un po' un'appassionata più che di scienza, di divulgazione scientifica, perché mi posso avvicinare solo così, perché non sono una scienziata e trovo che sia quando ci sono i bravi divulgatori la scienza diviene affascinante anche quando la si considera invece un mondo lontano, separato. Purtroppo, a proposito di Africa, il Fatto Quotidiano ci racconta una tragedia della Nigeria: la guerra e la fame è tornata alla strage dei bambini nigeriani. In molti hanno raccontato, molte organizzazioni non governative, che quando si visitano i campi profughi, per esempio in Nigeria, si nota che non ci sono bambini piccoli, e ovviamente non è possibile che non ci siano statisticamente, vuol dire semplicemente che c'è una mortalità altissima tra i bambini più piccoli in Nigeria, ma anche in altri paesi dell'Africa. Dall'Avvenire, a proposito di violenze e di crisi mondiali, la notizia che ieri il Papa ha mandato una lettera a Assad, vedremo se sortirà qualche effetto. Bashar al-Assad, il presidente della Siria, e il messaggio è basta violenze. Vedremo appunto se ci sarà qualche conseguenza. Torniamo ancora una volta a Francesca Del Rosso, la moglie di Alessandro Milan, scomparsa nella notte tra domenica e lunedì, perché il Corriere, con un articolo di Valentina Baldisserri, ce la ricorda, anche perché Francesca aveva anche pubblicato un libro sulla sua odissea di nuovo nel cancro, che durava da 6 anni, L'ultimo insegnamento di Wondi, che affrontò il tumore con il sorriso, una pagina intera con anche un accenno a quella lettera aperta che abbiamo detto Alessandro ha scritto a Francesca su Facebook, che è stata ripubblicata integralmente da Libero oggi. Un'altra buona notizia, comunque, secondo me, dalle pagine di spettacoli del Corriere della Sera è un articolo di un intervento di Riccardo Muti, il direttore d'orchestra, che ha diretto le migliori orchestre del mondo, naturalmente è stato anche alla Scala, e ora sarà protagonista delle celebrazioni per la nascita della Filarmonica Tel Aviv. In Israele, 80 anni dopo che ci andò un altro grandissimo direttore d'orchestra italiano, che era Arturo Toscanini. E ci sono ancora tanti articoli interessanti sui giornali di oggi, e spero che abbiate un po' di tempo per sfogliarli. Noi però il nostro tempo lo abbiamo quasi terminato. Ringrazio, cosa che mi ero dimenticata di fare ieri, Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione, e auguro ancora a tutti un buon martedì, una buona giornata da Giulia Crivelli.